L'unità dei cristiani. Alla fine del secolo appena trascorso, teologi protestanti e cattolici hanno siglato la cosiddetta dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione, secondo la quale non contano tutte le azioni umane, le opere, perché l'uomo è giustificato solo dalla grazia di Dio, indipendentemente dal modo in cui ha vissuto. È davvero un passo significativo in direzione dell'ecumenismo? Non si deve, pur con tutti i punti di convergenza, preservare con la massima precisione anche la specificità della fede perché non corre rischio di smarrire la propria identità? Non ci è purtroppo riuscito di comunicare fino in fondo il contenuto di questa dichiarazione di consenso, perché nessuno sa più oggi cosa si intenda per dottrina della giustificazione. All'epoca di Lutero è stata un tema molto dibattuto, che ha scosso e diviso gli animi, anche se l'avanzata del protestantesimo non era dovuta solo ad essa, ma anche, ad esempio, agli interessi dei principi che si ripromettevano dei vantaggi da una rapida diffusione della riforma. Oggi non è più un tema che sollevi un grosso interesse, nemmeno nella cristianità protestante. Così l'opinione pubblica ha colto soltanto che tutti concordano sul fatto che le opere non contano più davanti a Dio, ma solo la fede. Così non è solo il pensiero di Lutero a essere stato grossolanamente semplificato. Si disconoscono soprattutto le questioni che l'uomo moderno pone al cristianesimo. Alla fin fine, nei 500 anni trascorsi dalla Riforma, tutta la cristianità ha fatto nuove esperienze e ha subito un mutamento epocale. Non posso ora entrare nei dettagli, basti dire che nella dichiarazione comune si è iniziato col confermare che l'inizio di una vita con Dio proviene da Dio stesso. Noi non siamo in grado di innalzarci a Lui, Lui solo può trarci a sé. Quell'inizio che porta l'uomo sulla via giusta è la fede, e la fede è a sua volta espressione dell'iniziativa di Dio che noi non siamo in grado di determinare o di meritare. La Chiesa Cattolica, in sede di elaborazione di questo consenso, ha posto l'accento da un lato sul pieno riconoscimento dell'iniziale intervento di Dio, dall'altro sulla presa d'atto di ciò che l'iniziativa autonoma di Dio opera nel credente. Ha sottolineato il coinvolgimento umano voluto da Dio, che affida all'uomo la responsabilità e lo sollecita a collaborare fecondamente con lui, e ha messo in evidenza il giudizio cui sarà sottoposto la corresponsabilità del credente. Questo è il secondo pilastro di quella dichiarazione, che però è stato recepito scarsamente dalla pubblica opinione. Per dirla in altri termini, Dio non vuole degli schiavi che Lui rende semplicemente retti e che Lui stesso non prende sul serio. Vuole avere negli uomini partner effettivi, soggetti reali, messi in grado di collaborare con Lui dal dono dell'iniziativa divina e di assumersi la responsabilità di questa collaborazione. Direi che entrambi questi pilastri sorreggono l'impianto della dottrina della giustificazione. In loro è stato accolto ciò che dell'esperienza di Lutero corrispondeva davvero alle scritture, ma insieme vi è stato immesso ciò che la Chiesa Cattolica non ha mai smesso di dire e che è per lei irrinunciabile. E si è stabilito un equilibrio tra questi due elementi, fra queste due tradizioni.